Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia in diretta anche oggi dal Vinitaly, 47esima edizione, padiglione 11, stand G4, G5 nella regione Abruzzo, per chi volesse saperlo. E parleremo di vino anche oggi, ma parleremo anche oggi degli altri temi che tengono banco. Come ricordavo ieri, ci stiamo avvicinando al convegno, la due giorni di convegno di Confindustria di venerdì prossimo, venerdì e sabato prossimo, in cui il tema dominante sarà chiaramente anche il commento a questo decreto, ma soprattutto, se mi permettete, la pazienza degli industriali, che sembra finire la campagna che è presente su tutti i giornali. Il commento anche però al decreto oggi è arrivato in maniera più articolata, e mi riferisco al decreto che stabilisce il rimborso dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese che li aspettano da mesi, in alcuni casi anche da anni. E dicevo, 20 miliardi quest'anno, 20 miliardi l'anno prossimo, in realtà 1 miliardo e 3 che si sbloccano subito. Per quello che riguarda il commento, l'ha fatto oggi la direttrice generale di Confindustria, e in effetti, come era apparso anche a noi, devo dire, pur ricordando che il decreto è un provvedimento molto importante, le procedure previste, ha detto Marcella Panucci, appunto direttore generale di Confindustria, sono molto complesse. La speranza è che il Parlamento accolga le necessarie correzioni. La Panucci ha poi ricordato che ci sono passaggi dallo Stato alle regioni e agli enti locali che rischiano di allungare i tempi. Una serie di tavoli istituzionali che dovranno concordare il riparto delle risorse, ma anche la necessità che tutte le regioni adottino i provvedimenti legislativi per le modifiche di bilancio. Tutto questo, il fatto che le regioni adottino i provvedimenti legislativi, rischia di richiedere tempi più lunghi e per noi, ha concluso la Panucci, sarebbe un serio problema. Commenteremo anche la borsa, come sempre. In questo momento Milano guadagna l'1%, Londra lo 0,5%, New York è invariata, mentre Francoforte meno 0,5%. E parleremo poi anche del dato, ahimè, drammatico, anche se ogni volta che arrivano questi dati sui consumi, sui risparmi degli italiani, li definiamo drammatici. Perché? Perché sono dati che riportano i consumi e il reddito disponibile delle famiglie a un livello che non si vedeva dal 1990. Lo ha diffuso oggi l'Istat, tenendo conto dell'inflazione nel 2012, come già vi hanno ricordato i nostri GR, dicevano nel 2012 il potere d'acquisto delle famiglie è letteralmente crollato, meno 4,8%. E il calo, così come ieri sulla disoccupazione, l'aumento della disoccupazione più forte, dei licenziamenti più forti, si è avuto nell'ultimo trimestre 2012. Ricorderete il dato di ieri, 1 milione di licenziamenti nel 2012 contro 900.000 nel 2011. Anche nel caso delle difficoltà delle famiglie, il dato peggiore si è avuto negli ultimi 3 mesi del 2012, meno 5,4%. Ripeto, un calo che non si vedeva come calo annuo dal 1990 e che fa il paio con un altro dato che non si vedeva dal 1990, ossia la propensione al risparmio. La propensione al risparmio degli italiani è scesa all'8,2% ed è la più bassa, per quello che riguarda le famiglie italiane, anche qui dal 1990. In tutto questo, è chiaro, per utilizzare un famoso, ormai celebre titolo del Sole 24 Ore, che bisogna fare presto, ma non mi sembra che dalla politica e quindi dal Parlamento stia arrivando un segnale del senso di urgenza che il Paese vive, che le famiglie italiane vivono, che le imprese vivono. Per fortuna noi siamo una magra consolazione al Vinitaly ancora per oggi, e come ricordavamo ieri è un settore, quello del vitivinicolo, che soffre meno di altri la crisi, ma non si può certo, non ci si può certo accontentare, soprattutto se non si arriverà a una soluzione a breve. A giugno, io continuo a ricordarlo, rischiamo di avere una duplice / triplice coincidenza: l'IMU, l'aumento dell'IVA e anche i fondi per la cassa integrazione in deroga e altre forme di cassa integrazione che potrebbero iniziare a finire. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Le altre notizie in breve. Per 100 Milano, bene media 7+5%, Mediobanca +4,70 come Azimut, il 4,20 lo guadagna Intesa San Paolo, il 3,60 Telecom Italia, il 3% A2A, il 2,5 la Popolare di Milano, il 2,30 Mediolanum, il 2% è il rialzo di Unicredit, l'1,80 quello di Autogrill, l'1,40 quello di Enel Green Power, l'1,30 lo guadagnano sia Snam che Ubibanca, l'1,20 Eni, l'1% Enel. Negativa invece Luxottica, meno 2,15% come Pirelli, di nuovo in calo dopo il rinvio del piano industriale, l'Ottomatica meno 2, Campari meno 1,80, Atlantia meno 1,5, Tods meno 1,30, Saipem meno 1% come Diasorin, il Monte dei Paschi perde lo 0,90%. In calo il petrolio a New York a $93 al barile, e venendo all'Europa invece in Germania vi è stata una battuta d'arresto nelle esportazioni a febbraio. È sceso su base mensile dell'1,5% l'indice dopo aver segnato invece un +1,3% a gennaio. Le stime erano di un calo ma molto molto più modeste, si ipotizzava un -0,3%, e a pesare, lo dico senza nessun tipo compiacimento, a pesare sul calo imprevisto nella sua intensità dell'export tedesco è stata soprattutto l'Europa, che è il principale mercato di sbocco per la Germania, lo ricordo ogni volta. E comunque anche le importazioni tedesche sono calate di un 3,8%. E poi un consiglio a cosa deve fare l'Europa e cosa deve fare la Germania. Oggi è arrivato dal ministro alle finanze statunitense Jacob Gelu, che era a Berlino. Era in conferenza stampa con l'omologo tedesco von Schäuble, il falco del governo Merkel, e a chi gli ha chiesto che cosa può fare la Germania per stimolare la crescita in Europa, ha dato una risposta che noi cerchiamo di dare ogni volta, e cioè sostanzialmente, ha detto il ministro delle finanze americano, i paesi che ne hanno le capacità devono sostenere la domanda interna. Questo sarebbe molto utile, ossia se c'è un paese che in questo momento ha meno problemi di conti pubblici, di tagli, di tasse, beh, sostenga con i consumi interni quello che sono le esportazioni degli altri paesi dell'area euro, visto che siamo tutti nella stessa barca, o dovremmo essere tutti sulla stessa barca. La Banca Centrale Europea nel frattempo ci fa sapere oggi che le famiglie italiane hanno un livello di ricchezza analogo a quelle di partner quali Francia e Germania, ma quanto a reddito sono svantaggiate. Praticamente la ricchezza pro capite presenta differenze contenute tra i vari paesi. In Italia e Spagna i valori sono pari a 108.000 euro a persona, di poco superiore alla Francia 104 e alla Germania 95.000 euro. Nel reddito familiare invece noi ci collochiamo al nono posto con 34.000 euro, e la stessa Banca Centrale Europea fa sapere che in Italia una famiglia su sei è povera. Venendo all'Italia, si è avuto oggi il primo calo dopo 31 anni di crescita ininterrotta della spesa per gli stipendi degli statali, dei dipendenti pubblici. Nel 2011, il dato è del 2011, abbiamo speso 170 miliardi di retribuzioni per i dipendenti pubblici, in calo dell'1,6% sul 2010. E dovrebbe esserci anche nel 2012 un ulteriore calo della spesa per retribuzioni del 2,3%, ossia 165.000 occupati, come conseguenza anche del fatto che i dipendenti pubblici sono diminuiti dal 2006 al 2011 di oltre 230.000 unità. Ma lo dico perché spesso si dice bisogna tagliare i dipendenti della pubblica amministrazione. No, bisogna far funzionare la pubblica amministrazione meglio, sprecare meno, avere meno spese inutili, meno spese per consulenze inutili, ma il taglio c'è stato, 230.000 persone in meno in 5 anni, gli statali sono passati da 3.396.000 e sono diventate 3.396.000, mentre erano nel 2006 3.627.000. Adesso ci occupiamo anche di Fiat, poi parleremo di vino rapidamente, perché la Fiat la tratteremo anche nel corso dei mercati. Numero uno Sergio Marchionne nel corso dell'assemblea degli azionisti ha detto: non aver chiuso fabbriche in Italia è stata una scelta responsabile, il nostro impegno in Italia resta enorme considerando il momento di incertezza com'è quello attuale, l'incertezza politica pesa ma non cambio il mio piano industriale, serve un governo in fretta e serve subito la credibilità del paese, il mercato italiano ci preoccupa perché non vedo, per la prima volta ha detto Marchionne, non riesco a vedere il fondo di questo peggioramento del mercato italiano, che è appunto un peggioramento di giorno in giorno. Se qualcuno mi avesse detto che nel 2013 saremmo arrivati a 1.300.000 vetture non gli avrei creduto. La cosa buona è che la Fiat ha la forza finanziaria per poter gestire questo calo. E poi Marchionne ha anche aggiunto che la fusione con Chrysler sarà inevitabile. Vorrei, dicevo, prima di arrivare a parlare di vino, che almeno respiriamo un po', raccontare un paio di notizie su questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. No, perché si è saputo oggi, per carità tutto legale, che Giuseppe Musa ribatte quanto a stipendio Alessandro Profumo. Stiamo parlando degli stipendi infatti al Monte dei Paschi di Siena e a quello dell'ex presidente. Allora, nel periodo gennaio-aprile, Musseri, indagato per lo scandalo, ha percepito oltre 234.000 euro, mentre a Profumo è andata la sola remunerazione da consigliere, 62.000 euro in 8 mesi, dopo che lo stesso Profumo ha rinunciato allo stipendio da presidente, che era 500.000 di euro. L'ex direttore generale Antonio Vigni, indagato, è uno degli uomini al centro delle indagini, delle inchieste, anche dello scandalo che ha travolto il Monte dei Paschi, si è beccato come buona uscita 4.000.000 di euro e ha incassato 46.000 euro per soli 12 giorni. Ma è ovvio che è tutto legale, mi chiedo se sia opportuno. Mentre vorrei anche ricordare l'operazione che la Guardia di Finanza, con una certa dose di ironia, ha battezzato Torno Subito, scattata oggi a Reggio Calabria, sui casi di assenteismo nel comune di Reggio Calabria, che ha portato all'arresto per truffa di 17 impiegati, dipendenti organizzati in gruppi e sottogruppi, con artifici e raggiri, grazie a un sistema collaudato, attestavano falsamente la propria presenza, facendosi timbrare o timbrando per altri i badge personali. L'assenza del posto di lavoro, grazie alla copertura da parte dei colleghi, variava da poche ore all'intera giornata lavorativa. I finanzieri li hanno filmati, si allontanavano quotidianamente dal loro posto di lavoro per fare la spesa, concedersi lunghe pause caffè, per accompagnare per levare i figli a scuola e in qualche caso non si presentavano neppure in ufficio. Speriamo che ve ne siano anche altre di operazioni Torno Subito, perché penso o temo che non sia una caratteristica solo del comune di Reggio Calabria. Comunque, visto che a Venite li siamo ancora per oggi, occupiamoci di vino, occupiamoci anche dei successi del vino italiano nel mondo, fermo restando il timore, anche alla luce dei dati che oggi ricordavo, che continuare a crescere con le esportazioni possa non bastare se continuano a calare in questo modo i consumi interni. Anche oggi avremo numerosi ospiti, oggi parleremo anche di un successo o non successo, che è quello delle bolle italiane, una volta si chiamavano spumanti, adesso si chiama Prosecco, si chiamano Franciacorta, Trentino, che stanno facendo concorrenza seria, anche se non ancora hanno superato alle bolle più prestigiose al mondo, che sono chiaramente quelle dello champagne, ma i numeri sono impressionanti. Vorrei però partire con anche chi ci ospita qui al Vinitri, quindi la regione Abruzzo. Ieri abbiamo avuto una visione d'insieme da parte del presidente della fiera e anche di grandi gruppi, grandi produttori. E allora il vicepresidente del consorzio Vini d'Abruzzo, nonché presidente di Confindustria Pescara, dottor Enrico Maramiero, buonasera. Buonasera. Con lei vorrei tenere assieme sia la parte vitivinicola che la parte confindustriale, quindi di governo e dell'iniziativa del governo. Comunque mi dica in primo luogo se lei si ritrova in questa scheda, in questo disegno che abbiamo tracciato ieri, di un settore che è riuscito a pareggiare o a riequilibrare il grosso calo della domanda interna con le esportazioni. Assolutamente sì. Il settore vitivinicolo infatti rappresenta l'esempio di come deve reagire alla crisi. Un settore assolutamente difficile, non sono rose e fiori, e sta subendo questa crisi a livello mondiale, però i produttori vitivinicoli hanno capito prima degli altri, grazie anche al forte collegamento del loro prodotto con il territorio, che possono vendere questa immagine all'estero. Quindi come primo punto hanno posto l'internazionalizzazione e le esportazioni hanno compensato quello che è una riduzione naturale della domanda interna. Ma in più aggiungerei che i produttori vitivinicoli hanno fatto qualcosa in più, perché all'internazionalizzazione hanno accompagnato anche l'altro elemento fondamentale che noi predichiamo alle nostre imprese, cioè l'innovazione. Innovazione che non deve essere solo e necessariamente tecnologica, ma anche organizzativa, anche da un punto di vista di filiera commerciale, quindi la creazione di consorsi, di associazioni, di contratti di rete, che sono un nuovo strumento flessibile che sono a disposizione di tutti gli operatori del settore. Ecco, dove avete avuto i maggiori successi? Perché insomma in Abruzzo il vino è arrivato un po' più tardi rispetto a altre regioni storicamente più vocate e più forti, però voi con il consorzio del Montepulciano avete acquisito anche quote importanti sul territorio nazionale. Ecco, dove avete recuperato di più sul fronte delle esportazioni? In realtà una piccola precisazione, sì. Non è che è arrivato dopo il vino, siamo stati noi che abbiamo fatto conoscere la qualità del nostro prodotto più tardi. Lo facevate anche prima, ci mancherebbe. Al di là delle nozioni ovidiane, assolutamente sì, è vero che negli ultimi decenni l'Abruzzo è riuscito a far conoscere la qualità dei propri produttori e del proprio territorio, e insistendo soprattutto in quelli che sono i mercati tradizionali, Stati Uniti e Germania prima fra tutti, con i colleghi ci si organizza e ci si sta organizzando per farsi conoscere anche nei mercati nuovi, a partire dalla famosa Cina, che naturalmente è un mercato ancora immaturo sulla quale bisogna investire molto, però alcuni di noi già sono presenti, stanno intensificando le proprie presenze. Ma non dobbiamo dimenticare anche gli altri mercati asiatici, Giappone, Corea, che sono assolutamente importantissimi per le nostre esportazioni, oltre ai restanti paesi europei. Le imprese vinicole, vitivinicole, sono imprese, lo dice il nome stesso. E anche loro hanno avuto un certo danno dall'IMU, l'IMU agricola ha avuto un danno pesante. Temete moltissimo l'aumento dell'IVA, lo raccontavano ieri tutti i produttori, perché andrà a impattare direttamente sulle vendite in Italia. Che giudizio dà lei in questo caso come presidente degli industriali di Pescara del decreto del governo? E mi riferisco ai pagamenti della pubblica amministrazione. Già c'era stato il commento del presidente Squinzi, è un primo passo, ma assolutamente insufficiente, anche alla luce di quello che può essere i decreti attuativi. Abbiamo visto le difficoltà, per esempio, dei trasferimenti agli enti locali. Molto probabilmente dovremo arrivare poi a una misura drastica, anche se in questo momento irrealizzabile, la compensazione dei debiti delle imprese per motivi fiscali con i crediti magari superiori all'anno di durata, perché purtroppo c'è una grande parte dei debiti, sì, che supera questo tempo. Sì, che è una misura che il governo ha previsto a partire dal 2014, però. Ma dobbiamo vedere quanti rimarremo fino al 2014. Ripeto, molto probabilmente stanno maturando i tempi per misure di urgenza. Ecco, secondo lei a Torino, visto che poi saremo in diretta anche da Torino venerdì e sabato, arriverà una protesta forte da parte del mondo delle imprese? Assolutamente sì, peraltro la piccola e media impresa è quella che subisce in maniera più dura la crisi, perché a quello che è il dramma del pagamento della pubblica amministrazione si aggiunge il dramma del credit crunch, della diminuzione del credito da parte degli istituti, e in più mettiamoci un argomento che adesso è sottaciuto, ma è la nostra tragedia nazionale, che è il problema della burocrazia. Noi dovremmo partire dalla lotta verso la burocrazia. Io la ringrazio e vedremo poi che cosa emergerà anche su questo tema da Torino. Grazie quindi al dottor Enrico Maramiero, che è appunto sia presidente degli industriali di Pescara che vicepresidente del consorzio Vini Abruzzo. Grazie. 17:33 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, di nuovo in diretta dal Vinitaly, ultima giornata in cui saremo in diretta dal Vinitaly, padiglione 11 G4 G5. E dicevo, respiriamo un attimo perché poi torneremo a parlare dei temi che riguardano il calo dei consumi, mai così brutto dal 1990, del risparmio delle famiglie, mai così basso dal 1990. Il settore del vino, come abbiamo ricordato anche ieri, ha dei numeri di tutto rispetto perché ha visto aumentare fatturato e esportazioni anche nel 2012, grazie soprattutto all'esportazione, e questo mi sembra il filo rosso che lega un po' le varie aziende vitivinicole che abbiamo avuto ospiti e che avremo ospiti, la capacità dell'export di compensare il calo dovuto alla difficoltà dei consumi interni. Il consumo di vino era calato anche prima dello scoppio della crisi, ma quello era un calo culturale. Questo filo rosso riguarda qualunque tipologia di vino e di fascia, come dimostrano gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio, e quindi ringrazio in primo luogo Mantero Nelli, presidente delle Cantine Ferrari, buonasera. Buonasera. E anche a Ettore Nicoletto, che è amministratore delegato del gruppo Santa Margherita, che vuol dire Cade del Bosco, in Franciacorta, Kitmair, in Alto Adige, e appartenente poi come proprietà alla famiglia Marzotto. Buonasera anche a lei, Nicoletto. Buonasera. Cantine Ferrari, e quindi con lei presidente Lunelli, vuol dire sostanzialmente un fatturato di 52 milioni di euro. Voi avete avuto una crescita, ecco perché dico che si vede bene quello di cui stiamo teorizzando, analizzando in questi giorni, una crescita all'estero del 25%, che fa impressione, ma in Italia avete fatto un meno 10%. Certo. Allora, quanto può durare questa, diciamo, compensazione attraverso vasi comunicanti, per cui l'export riesce a farvi mantenere i numeri o a farvi anche crescere leggermente come fatturato complessivo? Ma io credo e spero che il mercato italiano abbia un'inversione di tendenza. Nel nostro caso devo dire che c'è stato, fino all'anno scorso, il mercato italiano aveva tenuto molto bene, avevamo continuato a crescere, l'anno scorso c'è stata un po' una battuta d'arresto, è evidentemente il risultato di un po' della crisi dei consumi. Tutto sommato le bollicine, il 30 doc, il metodo classico, le bollicine di qualità continuano secondo me a riscuotere un certo successo sul nostro mercato, ma manca il potere d'acquisto, quindi c'è una crisi in generale anche del settore Horeca, quindi c'è una difficoltà di questo che canale. Horeca sarebbe ristorazione, bar e catering? Assolutamente, che è un canale importantissimo perché la ristorazione, i bar sono grandi ambasciatori di Ferrari e delle bollicine di qualità. Evidentemente poi da un punto di vista strategico noi abbiamo focalizzato un po' la nostra attività negli ultimi anni sull'estero, perché all'estero ci sono delle enormi opportunità di crescita, noi ancora, per noi il mercato italiano è il mercato principale, all'estero abbiamo dei grandi spazi di crescita, e credo che la sfida importantissima per le bollicine italiane sia proprio quello di promuovere all'estero l'eccellenza, l'alto di gamma delle nostre bollicine, e quindi il Trento Doc, Ettore rappresenta la Franciacorta con una delle sue aziende. Noi abbiamo dei territori che rappresentano l'eccellenza delle bollicine italiane, ebbene all'estero dobbiamo raccontare questi territori, le loro tradizioni. Con Ferrari abbiamo 111 anni di storia, in Italia ormai la nostra azienda è conosciuta, credo ci sia una consapevolezza della qualità che il Trentino riesce a esprimere e una forte conoscenza del Ferrari. Ovviamente si tratta di portarlo negli Stati Uniti, in Germania, in Giappone, nei mercati tradizionali e perché no nei nuovi mercati. Io ho un segnale, per dire, molto di grande soddisfazione proprio in questi giorni, perché per la prima volta Wine Spectator, che è un po' la Bibbia del vino per il mondiale, ha dedicato a Ferrari per la prima volta un servizio intero di ben 4 pagine. Ebbene, è un segnale che rappresenta come anche sul mercato americano, che tradizionalmente guarda ai grandi vini italiani come solo vini rossi, è un segnale del fatto che inizia a esserci un interesse anche per l'alto di gamma delle nostre bollicine. Sì, devo dire, in un numero di Wine Spectator, che appunto è la Bibbia mondiale del vino, in cui campeggiava nella copertina Oscar Farinetti, nostro ospite molte volte, quindi con l'iniziativa Italy. Mi dica una cosa però, le dimensioni contano, perché voi andate a fare concorrenza diretta agli champagne, parliamoci chiaro, poi parleremo del Prosecco che invece ha tutto un altro tipo di concorrenza, non va in concorrenza diretta con gli champagne. Voi invece, sia Ferrari che Cade del Bosco, e per non far torto a nessuno citerò anche Berlucchi, Bella Vista, spero di non aver dimenticato nessun altro, andate in concorrenza diretta con l'alto di gamma. Allora lì le dimensioni contano, perché poi lo champagne quando si muove con una potenza di fuoco tipicamente francese, cioè c'è il singolo produttore, ma c'è soprattutto il consorzio che spinge. Ma le dimensioni contano, sì, semplicemente per quanto riguarda la comunicazione, il marketing su mercati come quello americano o magari su nuovi mercati come la Cina, che è il prossimo viaggio che io farò a fine mese. Sicuramente è importante che un'azienda abbia una propria struttura di marketing, di comunicazione, una struttura di vendite, e in questo senso tutto sommato noi come aziende del vino siamo considerate una grande azienda nel nostro settore, ma in termini assoluti tutto sommato siamo ancora una piccola realtà. Perciò a volte sui mercati internazionali questo può essere un limite, però si può giocare si può fare un gioco di squadra ecco, a livello di territorio. Visto che siete qua tutti e due, adesso non so se sto dicendo una bestialità, però immaginare che su mercati così difficili da aggredire come la Cina o come può essere anche l'India, perché sono mercati immensi, i marchi più prestigiosi italiani, un po' come è avvenuto nel lusso, vadano assieme, ognuno con le sue specificità, è possibile oppure no? Guardi, le do un esempio molto pratico di qualcosa che succederà fra poco. A Shanghai a fine mese ci sarà una mostra di Fondazione Alta Gamma che si chiama Italian Contemporary Excellence, in cui è stato chiesto a 10 fotografi, giovani fotografi italiani, di rappresentare l'eccellenza italiana contemporanea attraverso delle immagini ritratte in alcune delle aziende di parte di Fondazione Alta Gamma. Di questa fondazione, ad esempio, fa parte anche del Cadel Bosco, quindi ci saranno immagini di Cadel Bosco, come ci sono immagini delle cantine Ferrari. Ci sono immagini di altre aziende di vino italiano straordinarie e queste immagini andranno a fianco di quelle scattate nelle aziende della moda come Missoni, Ferragamo, Versace o nelle aziende del design come Cartel e Alessi, insieme per comporre un quadro che racconta lo stile di vita italiano. Questo credo che sia un modo bellissimo di rappresentare l'Italia, l'eccellenza italiana. Avverrà al padiglione, all'ex padiglione Italia dell'Expo di Shanghai, che è rimasto come un luogo di promozione, sì, della cultura dell'eccellenza italiana. Milioni che sono rimasti. Giro comunque la domanda anche a Ettore Nicoletto. Santa Margherita vuol dire non solo il bianco più venduto negli Stati Uniti, se non ricordo male, certo, il Pinot Grigio, ma anche appunto Cadel Bosco. Voi fate 95 milioni e mezzo di fatturato complessivamente, sì, con tutti questi marchi, e ne esportate il 60%. Innanzitutto anche voi avete avuto un rapporto export mercato interno simile a quello di Ferrari, cioè l'Expo cosa ha fatto? Abbiamo registrato una crescita del 7,5% sull'estero, mentre in Italia abbiamo ottenuto le nostre posizioni di un fatturato invariato rispetto al 2011. E quindi una difficoltà più sul mercato italiano rispetto all'export. Che decisamente che, sì, non è una novità. No, ma volevo riagganciarmi al tema è immaginabile, bellissima questa idea di alta gamma, Shanghai, però è immaginabile che noi iniziamo a aggredire in maniera ancora più massiccia con i prodotti di qualità, cioè andando più per fascia, diciamo, che per regione, quando devi concorrere con lo champagne, perché ripeto, questo è il vostro tra virgolette nemico. Ma insomma, abbiamo detto tante cose in questa prima chiacchierata. Innanzitutto la dimensione: quando parliamo di champagne parliamo di 330 milioni di bottiglie, mentre parliamo di Franciacorta parliamo di poco più di 10 milioni di bottiglie, il Trento DOC qualche milione di bottiglie, magari 7 milioni di bottiglie, può, quindi, diciamo, 17 milioni, diciamo, quindi arrivaste anche a 20 milioni contro 330. Quindi certamente quello che Champagne può fare con la sua associazione in termini di sforzo finanziario e comunicazionale è decisamente molto più significativo rispetto a quello che, certo, possiamo fare noi, che siamo tra l'altro anche molto frammentati come distretti e territori. Però credo che ci stiamo muovendo bene, vedo dei progressi, li citava poco fa Matteo Lunelli, all'export con il metodo classico, il Trento DOC, anche la Franciacorta stessa ha fatto dei passi in avanti significativi, noi stessi al nostro osservatorio Cadel Bosco l'anno scorso abbiamo registrato una crescita del 35% sui mercati esteri, quindi sono segnali importanti. È chiaro che prima di arrivare alla dimensione volumetrica, e non ci arriveremo mai per un discorso di limite territoriale della Champagne, dovremmo fare molta strada, però io credo che la strada imboccata, adesso parlo di Franciacorta, da Franciacorta con il suo consorzio guidato da Maurizio Zanella, che tra l'altro è anche il presidente di Cadel Bosco, sia uno sforzo notevole e che sta dando anche dei risultati molto importanti in termini di posizionamento e di valorizzazione dell'immagine di un territorio fantastico qual è quello della Franciacorta. Andando per un attimo invece sui vini fermi, come si chiamano in gergo, e quindi Santa Margherita per voi, l'America, io vedo dei numeri che stiamo osservando, continua a essere un mercato molto interessante, cioè l'America è ripartita da questo punto di vista. Allora, l'America è ripartita, anche se dovessimo guardare i dati dell'export italiano negli Stati Uniti, vedremmo che non c'è stata una grande crescita volumetrica, anzi c'è stato un leggero arretramento. Quello che registriamo invece a livello di sell-out, quindi nella fase finale della filiera distributiva, è una rivitalizzazione delle fasce alte prezzo, quindi la fascia super premium e la fascia ultra premium, quindi c'è un mercato che sembra spostarsi verso l'alto e quindi un'attenzione del consumatore a prodotti di fascia molto, molto alta. Questo a noi interessa molto perché... Perché rubate quota anche i francesi, io sono sempre contento, lo dico con massimo rispetto per i francesi. Il mercato interno, Nicoletto, anche per lei, anche perché voi fate Sicca del Bosco, ma fate anche Santa Margherita, Pinot Grigio, insomma, vini diciamo abbordabili, vini di fascia media. Accessibili. Quanto è in difficoltà, ma quanto riuscirete a reggere nella compensazione con l'export? Ma allora, l'auspicio è quello che l'export continui a crescere e a tirare e a supplire a questo deficit che registriamo sul mercato nazionale. I consumi continuano a contrarsi, noi ci auguriamo che sia una brutta fase congiunturale, un po' più lunga del solito, perché il rischio è di arrivare vicini ai 35 litri pro capite, che è un dato molto brutto. Che se perdura ci metterà veramente in difficoltà. La crisi del canale Horeca, quindi hotel, ristorazione, catering, è una crisi profonda e noi ci auguriamo che questa possa passare. Beh, l'augurio vale per tutti i settori produttivi in Italia e chiaramente anche per il vostro. Nel salutarvi mi togliete una curiosità, non so chi vuole rispondere, io non ho mai capito una cosa, ma la Champagne non è un'area così grande, no? Come fanno a produrre 330 milioni di bottiglie? Hanno così tanti vigneti lì? Beh, il vero non è che sia poi così piccola, nel senso che poi se uno pensa dov'è la Franciacorta e il Trentino forse... Quindi è tutto vino che viene da lì, sì? Certamente. Ci fidiamo di quello che dicono. Certamente. Ah certo, ma basta, era una mia... Beh, insomma, ci sono dei disciplinari di produzione che devono essere rispettati. Ma ci mancherebbe, non mi permetterei mai. No, era una mia curiosità, perché insomma 330 milioni di bottiglie su un territorio relativamente piccolo vuol dire che... è molto intensiva come agricoltura, mettiamola così. Va bene, grazie a Ettore Nicoletto e grazie a Matteo Lunelli, rispettivamente gruppo Santa Margherita, quindi Cara del Bosco e gruppo Ferrari. Grazie a voi e buonasera. Grazie, buonasera. Dicevamo del successo del Prosecco ed è nostro ospite uno dei produttori che vende in 62 paesi, fattura 15 milioni di euro. E a dimostrazione di quello che stiamo raccontando, nel 2012 ha aumentato le vendite in Estremo Oriente di Prosecco del 102%, del 20% le ha aumentate negli Stati Uniti e del 22% in Europa. Buonasera quindi a Gianluca Bison. Buonasera. Ci aiuti a capire, perché non è che non ho nulla contro il Prosecco, poi da Veneto si figuri se ho qualcosa contro il Prosecco, però eravamo abituati a vedere i grandi spumanti, bolle, Champenoise, penso a Ferrari, Cara del Bosco, Berlucchi e quant'altro, affermarsi e fare concorrenza storica allo Champagne e affermarsi sempre di più. Il fenomeno Prosecco è un po' diverso, perché non va a fare una concorrenza diretta nella fascia alta. Che cosa ha creato questo boom? Perché non è solo il 120% in Estremo Oriente, è il 20% negli Stati Uniti, che hanno un mercato già saturo di vino italiano. Sì. Beh, indubbiamente il Prosecco di Valdobbiadene ha segnato una svolta in quello che è il mondo delle bollicine italiane, ma una svolta che parte da lontano, una tradizione secolare. La mia famiglia produce Prosecco dal 1542, quindi non si tratta di un fatto nuovo. È un fattore, quello del successo del Prosecco, legato al fatto innanzitutto che si tratta di uno spumante italiano. Davvero qui non ci ispiriamo a nessun altro spumante del mondo, ma è un vitigno autoctono italiano, veneto, un vitigno che è nato lì e che ha trovato la sua collocazione territoriale in un luogo che ne ha ispirato tutti questi fattori di successo, che sono dati da un profumo fruttato, floreale, un rapporto qualità-prezzo eccezionale, e soprattutto uno stile di consumo informale, quindi non uno status symbol, quindi non è che bere una bottiglia di Prosecco di Valdobbiadene sia uno status symbol come per altri prodotti del mondo delle bollicine, come può essere lo champagne, eccetera, ma un prodotto che rappresenta lo stile di vita italiano, quindi informale, elegante, raffinato, ma che si adatta ad ogni momento della giornata e che conquista i palati femminili, i giovani. Quanto ha pesato in questo periodo anche il rapporto prezzo? Indubbiamente molto. Ecco, è un prodotto anticiclico da questo punto di vista. Il prezzo non è il più basso in assoluto nel mondo delle bollicine, perché il cava è molto più competitivo del prosecco. Il cava, ricordiamo, lo spumante spagnolo che fa oltre 200 milioni di bottiglie, e tanti altri spumanti italiani sono più economici del prosecco. Però il prosecco probabilmente si è collocato in quel giusto range di grande reputazione e credibilità, ma anche non eccessivo come prezzo, e quindi apprezzato anche per questa ragione. Quanto riuscite a reggere solo sull'export? Una domanda che abbiamo per tutti i produttori che intervistiamo in questi giorni, cioè il prosecco in Italia sì, ha dei buoni numeri, ma il boom è stato all'estero, inutile nascondersi. Ma io credo che l'estero sia tutta una strada in discesa per i prossimi anni. Abbiamo conquistato ancora poco di quello che meritiamo come quota di mercato. Io faccio sempre l'esempio degli Stati Uniti. 30 anni fa vendevamo pochissimo negli Stati Uniti. Oggi vendiamo un 4% di quota di mercato in più dei francesi. In Cina, per esempio, i francesi hanno il 52% di quota di mercato e noi solo il 6,2%. È una strada in discesa, indubbiamente. Dobbiamo solo impegnarci, prenderla, imboccarla e fare veramente quello che la natura ci dà e promuoverla. Ecco, su questo quanto possono essere un freno invece le dimensioni delle imprese italiane, perché poi i mercati cinesi non si aggrediscono, ne parlavamo anche ieri, insomma i produttori sono ancora tantissimi in questo paese, perché se vuoi andare in Cina forse i consorzi servono più del singolo produttore, no? Beh, diciamo di sì, i consorzi hanno un ruolo importantissimo soprattutto per creare anche quella base di credibilità che ogni prodotto deve avere e che oggi il prosecco ha a tutti i livelli, dal DOC al prosecco di Valdobbiadene per arrivare al Cartizze. Ma per andare all'estero effettivamente bisogna avere quella soglia dimensionale che solo pochi prodotti possono dare. Noi ovviamente nel prosecco siamo un po' avvantaggiati perché è la più grande DOC italiana, 280 milioni di bottiglie tra DOC e DOCG, e quindi possiamo ambire ad avere anche come singole aziende la giusta dimensione. Ma io direi, per esempio, nel mondo del bollicine, quanto di più bello sarebbe riuscire a mettere insieme tra 4 aziende, una che fa Trento Classico, una che fa Prosecco di Valdobbiadene, una che fa Franciacorta, una che fa Asti, una che fa un bel Lambrusco di qualità, e ad andare a promuovere questo stile delle bollicine italiane, informali, eleganti, ma che si prestano ad ogni momento della giornata. Beh, lavorateci, noi siamo sempre a favore del consolidamento di qualunque settore industriale, a maggior ragione un settore così ancora parcellizzato, così ancora frammentato come quello vitivinicolo. Grazie e in bocca al lupo. Grazie. Come facciamo tutti i produttori, a Gianluca Bisola appunto, e speriamo il prossimo anno di vedere numeri ancora più belli sul prosecco. Ma, in tutti i mercati siamo esteri. Partiti con un trimestre incredibile, un più 38% più in 38. 3 mesi, sì. Beh, mi sembra di buon auspicio. Sì. Grazie ancora. Grazie, a presto. E adesso la borsa, si conclude la parte dedicata al mondo del vino, è un appuntamento ormai fisso di questo programma da anni. La borsa, dicevo, volete sapere quanto è lo spread? È a 310 punti, quindi tutto sommato contenuto, anche se non, come dico sempre, accettabile. La borsa ha chiuso sui livelli più alti, più 1,26%, grazie soprattutto alle banche, ma anche a Telecom Italia che si è risvegliata, ne parleremo, uno dei casi di borsa, più 3,83%, e allora borsa sia. Partiamo proprio da Telecom Italia, più 3,83%. Poco fa è arrivato una nota di Telefonica, che è azionista di Telecom Italia, che ha detto che l'investimento in Telecom Italia è un investimento di lungo periodo, di lunga durata, e non ha voluto commentare su un possibile disimpegno dentro Telecom Italia. Si sono però mossi bene oggi tutti gli azionisti di Telecom: Mediobanca più 5%, Intesa San Paolo più 3,60%, e anche le generali hanno guadagnato l'1,46%. Che cosa c'è sotto, o meglio, che ragionamento sta facendo il mercato? Lo chiediamo ad Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano. Il mercato sta ragionando sulle possibilità di questa operazione e su un buon esito delle trattative tra Telecom Italia e Hutchison Vanpoort, cioè l'azionista di riferimento di Tre Italia. Le trattative sono state confermate, almeno i contatti sono stati confermati nella scorsa settimana. Oggi le prime indiscrezioni che vorrebbero Hutchison Vanpoort, cioè la compagnia cinese disponibile a diventare socio di maggioranza relativa. Quindi su questo scenario Telecom si è riaccesa dopo lo stop di ieri, ha guadagnato il 3,8%, ma si sono riaccesi in particolare gli azionisti più importanti di Telecom, appunto Mediobanca ha guadagnato il 5%, Intesa il 3,6%, Generali un po' più lenta ha guadagnato l'1,5% e in Spagna, tu citavi la notte di Telefonica, Telefonica ha avuto una giornata brillante, poi ha un po' ripiegato nel finale, ma ha guadagnato anch'essa 1,07%. Questo ragionamento sul gruppo Telecom Italia. Invece, per quello che riguarda gli altri titoli bancari, Unicredit più 1,90% e Ubibanca più 1%, con però un grosso rialzo per Azimut più 5,75%. La giornata di Azimut è stata segnata in positiva dalla pubblicazione dei dati sulla raccolta di risparmio gestito nel mese di marzo, una raccolta particolarmente positiva per 175 milioni, un trimestre record per Azimut, e questo ha innescato il titolo che prima aveva viaggiato più lentamente nel corso della giornata, sì. E nella seconda parte del pomeriggio ha guadagnato il 5,7%. :18 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia, ultima giornata che trasmettiamo in diretta dal padiglione 11 al Vinitaly di Verona, stand G4, G5. E allora concludiamo l'approfondimento di borsa per poi parlare invece dei dati sulla difficoltà, crollo addirittura del potere d'acquisto delle famiglie diffusi oggi dall'Istat e anche della propensione al risparmio delle famiglie. Dicevamo con Andrea Fontana, al di là di Telecom Italia e di Azimut e anche di tutti gli azionisti di Telecom Italia, Mediobanca, Intesa e Generali, tutti oggi sono andati molto bene. C'è un altro caso di borsa che si chiama Mediaset più 5,50%. Sì, per quanto riguarda Mediaset, da una parte certamente un rimbalzo significativo, visto che la scorsa settimana, penalizzata anche dalle questioni spagnole, dalla possibilità di perdere alcune frequenze in Spagna, Mediaset aveva perso il 5% complessivamente. Alcuni operatori segnalano come l'evoluzione del quadro politico, quindi che rivedrebbe un ruolo di protagonista per Silvio Berlusconi, potrebbe avere parzialmente influito su questo rialzo, anche se certamente la tesi del rimbalzo è quella che viene privilegiata sui mercati. Tra chi invece non è andato bene, di nuovo Pirelli, è il peggior titolo anche oggi, meno 2,34%, hanno rinviato il piano industriale, ma qui il timore è che vi sia una frenata nelle vendite, in particolare in Europa, anche perché appunto il settore auto sappiamo come è messo. Sì, certamente diciamo che altri segnali di questo tipo sono arrivati da Michelin e da Nokian, quindi concorrenti di Pirelli sul mercato europeo. Il timore è che appunto questa frenata diciamo così delle vendite possa andare a influenzare anche quel segmento che sta facendo la forza di Pirelli in questi anni, cioè il segmento premium, e quindi il timore sul secondo semestre diciamo confermato anche dalla volontà della società di far slittare la presentazione del piano a novembre sta penalizzando un titolo che insomma nell'ultimo mese ha perso qualcosa come il 12% circa. Bene invece Autogrill oggi, che ha annunciato, visto che parlavamo prima con i produttori di vino dell'Asia, un ingresso in Vietnam. Sì, Autogrill ha fatto questo annuncio per cui entrerà attraverso una joint venture sul mercato vietnamita, con la presenza negli aeroporti del paese di 80 punti vendita, e infatti questo ha permesso al titolo di guadagnare l'1,7%, si è mosso in controtendenza rispetto alle altre società esposte verso il dollaro, che oggi ha perso un po' di terreno, tant'è vero che Luxottica, Lottomatica, Campari hanno perso terreno, mentre Autogrill pur essendo piuttosto esposta verso questa moneta, ha guadagnato proprio sulla scia della notizia vietnamita. Migliori e peggiori in assoluto, Azimut dicevamo più 5,75 di Mediaset, abbiamo già parlato, Geox più 5,20, Fondiaria SAI più 5, Mediobanca abbiamo detto più 5%, fronte opposto invece Edes meno 8,5, Telecom Italia media sulle risparmi meno 5,60, Brembo meno 4,30, Softec meno 4%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. Adesso ultimo tema di questo programma, in realtà sono due temi che cerchiamo di tenere assieme: il giudizio degli industriali al decreto del governo per il rimborso dei pagamenti che la pubblica amministrazione deve alle imprese, ricordo sono più di 90 miliardi di euro, il decreto del governo interviene al massimo per 40 miliardi in due anni, e i dati drammatici diffusi oggi dall'Istat su un 2012, già ieri commentavamo la disoccupazione, 1 milione di disoccupati si sono creati nel 2012, i dati di oggi sul potere d'acquisto e la propensione al risparmio vanno, ahimè, nella stessa linea. Procedure troppo complesse, lo ha affermato Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria. Il decreto che sblocca i pagamenti alla pubblica amministrazione è un provvedimento importante, ma le procedure previste sono molto complesse, e torneremo su questo punto di procedure complesse e comunque di dubbi sull'impostazione complessiva del decreto. Ha parlato anche Alessandro Laterza, vicepresidente per il Mezzogiorno di Confindustria. Continua quindi il nostro viaggio di avvicinamento all'appuntamento di venerdì a Torino per la 2 giorni della piccola industria di Confindustria. Ascoltiamo Alessandro Laterza al microfono del nostro Simone Spezia. Preoccupazione è forte perché ovviamente da un lato viene accolto con grande interesse questo decreto, dall'altro è evidente che il meccanismo che viene messo in opera è molto complesso, e il nostro problema è quello anche di insistere su un fattore tempo che è decisivo, quindi non possiamo avviare una macchina i cui risultati poi vediamo a distanza di mesi, bisognerebbe cominciare a vedere le prime conseguenze di questo orientamento, di questa scelta nel breve termine. Quindi da questo punto di vista l'attenzione è positivamente orientata, ma appunto con grandissima attenzione poi agli interventi che sono necessari per evitare che la montagna partorisca un topolino. Questo dal lato del decreto, più in generale, visto che insomma le aziende non è che lavorano solamente con la pubblica amministrazione, ma anzi, più in generale il livello di sofferenza delle imprese sembra essersi acuito in realtà nell'ultimo periodo piuttosto che allentato. Una delle motivazioni che ci portano a dire che il tempo è scaduto non è solo legata ovviamente alle lentezze di della formazione di un riferimento di governo, ma anche al fatto che sembra quasi che non ci sia ancora una percezione precisa della situazione di emergenza in cui ci troviamo. Fa ovviamente notizia il momento in cui ci viene comunicato il numero di disoccupati e di inoccupati, ma questo che è uno stillicidio quotidiano, ogni giorno chiudono decine di aziende, ogni giorno molte persone perdono il lavoro, e uno degli elementi che è importante sottolineare è che siamo al di là di una dimensione puramente congiunturale, cioè le imprese che oggi cadono è molto difficile che possano in altra forma, in altro modo riprendere, quindi questo si traduce in una perdita secca che ne misuriamo poi attraverso il saggio di caduta della produzione industriale, per esempio. C'è una sorta di grido di dolore che non viene percepito, quindi? C'è un disagio molto forte e una tensione che è crescente, perché al di là delle difficoltà con le quali tutti quanti gli imprenditori sono abituati a combattere da sempre, e questa difficoltà a intravedere un orizzonte, una prospettiva, quello che induce un sentimento molto negativo. E quindi la nostra preoccupazione è non solo quella di spingere con molta forza per mettere attenzione sulla situazione di crisi economica, ma anche per interpretare in maniera possibilmente costruttiva questo sentimento di disagio che a mio avviso viene per certi aspetti sottovalutato. E si preannuncia un venerdì intenso di dolore, ma anche di rabbia, quello dei piccoli industriali di Confindustria, appunto venerdì e sabato. Poi a Torino, al Lingotto, chiuderà i lavori il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, vi saranno gli interventi di Pietro Grasso, presidente del Senato, Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea, i leader sindacali Camusso, Bonanni e Angeletti, e anche l'amministratore legato dell'Enel, Fulvio Conti, nonché l'amministratore legato di Intesa San Paolo, Enrico Cucchiani. Meno 4,8% il crollo del potere d'acquisto delle famiglie italiane nel 2012, con un picco, anche in questo caso, più forte, più virulento negli ultimi tre mesi dell'anno scorso, meno 5,4%. E per far capire quanto forte sia questa caduta, basti ricordare che è la più forte dal 1990, che è da quando è disponibile il dato, quindi non sappiamo se in realtà sia ancora più forte come calo. E discorso purtroppo analogo anche per la propensione al risparmio delle famiglie italiane. È scesa all'8,2%, è il livello più basso dal 1990, anche in questo caso da quando esiste la serie storica, da quando la misuriamo. Mai così male in 22 anni. Non so se questo possa aiutare la politica a capire il tempo e l'emergenza che stiamo vivendo. Chiedo invece un commento su questo e anche sul decreto per sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione all'economista Giacomo Vaciago, che oltre che essere editorialista del Sole 24 Ore insegna anche economia politica all'Università Cattolica di Milano. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Allora, diventa un po' una specie di lapide ormai raccontare quelli che sono i dati sui consumi, sulla propensione al risparmio. È una via di mezzo tra un calvario e una Spoon River. E diventa anche difficile per noi trovare, professor Vaciago, nuove chiavi di lettura, perché qui ogni volta che escono i dati sul 2012 e anche sul 2013 continuiamo a registrare un calo che non si vedeva dall'inizio degli anni 90, da quando ci sono le serie storiche. In tutto questo, che cosa può fare il futuro governo, di cui per ora l'esistenza nemmeno si intravede? Beh, diciamo che in sé la quotidiana pubblicazione di dati cattivi, perché ahimè è quello che facciamo oramai da più di un anno, è che non sta per finire, questo diciamo che semmai serve solo a confermare il pessimismo che già si taglia a fette in giro per il paese. Le famiglie vedono male il loro futuro, le imprese ovviamente in questa crisi sono parte del problema, ma non solo parte della soluzione. Allora, un governo dovrebbe fare due cose: come si affronta con strumenti di immediata applicabilità l'emergenza e come si fa partire un discorso a più lungo periodo che ritorna a far crescere il paese. Messo su questi due binari, attenzione che la prima cosa è da garantire che sia efficace domani. La mia idea era che questo decreto d'emergenza per dare liquidità a creditori della pubblica amministrazione dovesse essere affidato alle direzioni provinciali della Banca d'Italia, che chiamavano industriali e banchieri e raggiungevano un accordo quotidiano sulla liquidazione di questi crediti. La Banca d'Italia è rimasta una grande struttura amministrativa efficiente, ha uffici regionali come il governo ha le prefetture, può fare qualcosa. Io ricordo quando Tremonti provò a dire che i prefetti avrebbero mediato, ma senza soldi è tempo perso. Quell'ipotesi di uso dei prefetti a fini economici non aveva senso. Ma coinvolgere Banca d'Italia, che rimane una grande risorsa del Paese, la politica monetaria si fa a Francoforte, ma qui ha una struttura di prima ordine. Bene, l'emergenza la si risolve con strumenti efficaci quotidianamente, altrimenti è come quando c'è un incendio, tu dici che le case una dopo l'altra bruciano e che i pompieri chissà dove sono. Quindi lei avrebbe visto un ruolo della Banca d'Italia che faceva sedere allo stesso tavolo gli industriali, e quindi le imprese che aspettano di essere pagate dalla pubblica amministrazione, e anche il governo, con una Banca d'Italia a mediare, diciamo, a fare da snodo? No, a fare da amministrazione dello Stato, è quello il DNA della Banca d'Italia. La politica monetaria è comune, ma la Banca d'Italia sta sul territorio e ha la capacità tecnica e tecnologica per gestire il sistema dei pagamenti in tempo reale. Non è possibile che debitori e creditori non si conoscano. Senta, professor Vacciago, mi dica un'altra cosa, ma il decreto che è uscito però, lei la pensa come Confindustria, cioè che le procedure sono troppo complesse, che c'è stato un approccio troppo ragionieristico? Ma è drammatico, perché se non dà liquidità domani serve solo a ribadire che c'è un grave problema. E io non ne posso più di sentire tutti urlare che c'è un grave problema. Questo non fa bene al Paese. Torniamo al provvedimento. Qualcuno si ricorda che nel maggio del 2012 ci fu un terremoto in Emilia centrato su Modena? Proprio il Sole 24 Ore qualche giorno fa diceva: stanziati 12 miliardi, non è ancora arrivato un euro. Beh, ma è drammatico. E quindi quello che diceva appunto oggi la direttrice generale di Confindustria Marcella Panucci, procedure troppo complesse, per quanto il provvedimento sia importante, ma il passaggio dallo Stato alle regioni agli enti locali con una serie di tavoli istituzionali che devono concordare il riparto delle risorse rischia di allungare i tempi e di chiedere tempi più lunghi del necessario. Torniamo invece però ai due temi, quindi il crollo del potere d'acquisto e anche i mancati pagamenti da parte dello Stato. Come è chiaro che se ci fosse un accordo vero e proprio, immediato, tempestivo, un po' di sollievo potrebbe esserci, però qua rischiamo che a giugno, oltre all'IMU e all'IVA, finiscono anche i soldi per tante istituzioni di cassa integrazione, cioè per quello che in questo momento ha permesso al sistema di non subire un contraccolpo ancora più grave. A questo punto il primo impegno del prossimo governo quale deve essere, professor Vacciago? Beh, assolutamente di far partire ciò che serve a ridare crescita al Paese, quindi investimenti eccetera, sapendo che quello ovviamente non ha effetti domani, ma poi soprattutto da qui a Natale non possiamo accettare che uno Stato debitore non paghi i debiti sperando che i suoi creditori falliscano prima di lui. Questo è prima di tutto immorale. Gli industriali stanno perdendo la pazienza, c'è anche una richiesta di quasi compartecipazione con i sindacati per dire siamo sulla stessa barca, se ne parlerà molto a Torino, al convegno di Confindustria, della piccola industria di Confindustria. Della assenza di tempo e della necessità di fare presto, come scrisse il Sole 24 Ore. Lei ritiene che a questo punto, senza risposte immediate e concrete, possa aumentare anche la tensione in categorie tendenzialmente più abituate a lavorare che a protestare? Temo di sì. Attenzione, stiamo vivendo di risparmi accumulati e questo spiega perché, pur gravi i numeri quotidiani che pubblichiamo, nel frattempo non ci siano ancora state rivolte sociali, eccetera. Però poi queste cose succedono, perché è chiaro che a un certo punto il risparmio finisce, è chiaro che a un certo punto il padre non riesce più a mantenere il figlio, disoccupato da un anno e così via. stiamo vivendo di grasso che c'era nel sistema, perché l'Italia non è un paese povero, però anche il grasso prima o poi finisce e allora all'improvviso ti scopri nudo, ti scopri senza più protezione. E da qui arrivare anche un accordo di carattere europeo, professor Vaciago? Scusa, non ho capito. Da qui anche l'esigenza di arrivare a un accordo anche di carattere europeo? Ma l'Europa, non possiamo usare l'Europa come alibi per le nostre inefficienze. L'Europa ci ha lasciato spazio su questa cosa, ha capito l'emergenza. Dopodiché, se tu non riesci a far funzionare la tua macchina, è un po' buffo andare a Bruxelles a chiedere permessi. Sì, su questo sono d'accordo, noi abbiamo spesso criticato la linea europea, però devo dire che in questo caso sui pagamenti degli arretrati della pubblica amministrazione l'Europa, non dico che abbia fatto il possibile, ma comunque una mano ce l'ha data, consentendoci anche di aumentare un po' il deficit purché resti sotto il 3%. Grazie all'economista Giacomo Vaciago. Buonasera a tutti. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi torniamo in diretta dalle 17 domani dagli studi di Milano, per ora da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata.